Trame insate, rete degli inferi, infernalia atroce, scrive rapo veloce, scrivisse di croce, croce, città di memoria, indice che vorrebbe andarci a cancellare la storia, la nostra storia, mia, mia, volendo poi, chiocchio ai bracci sanguinanti, cedendo, uccedendo violenza a furi di genti, contro di me, contro me. Siddhartha tace sotto spine e sputi di cobra, vede il legno sotto avversa, rotto di Cristo il calice di eterna giovinezza, raccolgo sudario e sangue, mi sto cacendo, amaro sorgente di gesta. Siddhartha tace sotto spine e sputi di cobra, vede il legno sotto avversa, rotto di Cristo il calice di eterna giovinezza, raccolgo sudario e sangue, mi sto cacendo, amaro sorgente di gesta. Cori e musiche vociare mefistofeliche, sospiri trascinano noti al giorno, richiamo di Dio denaro, sessi, droga e potere di un mondo avaro, io genio raro, stilo troppo inchiostro col mio sudario, in Gesù memoria, vivo memoria risurgita, mentre grida e strage in fight, mentre distruggono tutto e tutti. Tutto e tutti.